Focus Economia. Con Deborah Rosciani. Buonasera a tutti da Deborah Rosciani, benvenuti a Focus Economia, l'ultimo appuntamento della settimana per raccontarvi la giornata economico-finanziaria, anche se per la verità questa è stata una settimana un po' a ranghi ridotti perché abbiamo ripreso le nostre dirette da mercoledì, in concomitanza peraltro con un avvio d'anno che è stato molto brillante per i mercati finanziari, come sapete bene. Tra l'altro, esattamente come è successo ieri, la gran parte della giornata è stata trascorsa in territorio negativo per Milano, che adesso segna invece più 0,14% sulle FTSE MIB. Quindi ancora una volta ribadiamo, c'è questo atteggiamento positivo in questo inizio d'anno, questa volontà di consolidare i rialzi messi a segno nella prima seduta del 2013, quando tutti i mercati hanno risposto coralmente positivamente all'esito delle trattative politiche americane per superare appunto l'ostacolo del fiscal cliff, del baratro fiscale. Abbiamo una situazione sulla parità per gli altri indici europei: Parigi è a più 0,03%, un po' meglio Francoforte, più 0,15%, ancora meglio Londra, più 0,51%, mentre per quello che riguarda gli Stati Uniti il quadro è contrastato. Oggi parleremo anche un pochino di Stati Uniti, non moltissimo come abbiamo fatto negli ultimi giorni, perché c'è stato il dato sulla disoccupazione americana di dicembre che non ha scaldato più di tanto il mercato. Il tasso di disoccupazione si è confermato, si è attestato al 7,8%, il mercato risponde così: il Dow Jones è fermo sulla parità, il Nasdaq è leggermente negativo, meno 0,16%, lo Standard & Poor's segna più 0,13%, l'euro sul dollaro a 1,3044. A proposito di rapporto di cambio euro su dollaro, da quando abbiamo ripreso le dirette di questo nuovo anno abbiamo focalizzato molta parte della nostra attenzione sui mercati azionari e sui mercati obbligazionari, perché ci è interessato anche monitorare da vicino come inaugurasse l'anno anche lo spread, il differenziale fra Italia e Germania sulla scadenza decennale, oggi ancora a ribasso sui 273 punti base, come ci raccontava poco fa Raffaella Calandra dal radiogiornale. Oggi faremo invece un piccolo focus sul mercato valutario. Per quale motivo? Perché chiaramente questo rapporto di cambio è testato con grande attenzione dal settore industriale italiano, in particolar modo da quello europeo. Si osserva un euro piuttosto forte ancora, nonostante abbia ritracciato un pochino negli ultimi giorni. Fa bene questo all'industria europea. Naturalmente questo valore della moneta non rende particolarmente competitivo il prodotto europeo sugli altri mercati internazionali. Oggi, grazie anche ad un'inchiesta apparsa questa mattina sul Sole 24 Ore, faremo un punto sulla manifattura italiana. È naturalmente un tema che ci interessa molto. C'è un'analisi molto interessante di Marco Forti, solo avremo proprio lui appunto al termine della nostra trasmissione, e l'attacco della sua inchiesta sul Made in Italy è questo, cioè da augurarsi che nelle tante agende politiche trovino spazio due grandi pilastri sottovalutati dell'Italia che i suoi governi non riescono a valorizzare: l'industria manifatturiera, di cui si parla appunto proprio in questa inchiesta di questa mattina, e la ricchezza delle famiglie, che invece sarà oggetto di un altro approfondimento appunto nei prossimi giorni. Noi faremo proprio il punto sull'industria manifatturiera, che tutto sommato regge anche sui mercati internazionali, e quindi vi racconteremo un po' come stanno andando le cose. Parleremo poi dell'altro grande tema di preoccupazione per quello che riguarda l'economia italiana: i consumi scendono sempre di più, e proprio tra l'altro in questi giorni in cui sta iniziando la stagione dei saldi, è stato il tema di cui ci siamo occupati anche questa mattina a Salvadanaio. Le organizzazioni del commercio sono molto preoccupate, molte vendite promozionali erano già cominciate prima della stagione appunto ufficiale dei saldi, che generalmente appunto corrisponde all'inizio dell'anno. E c'è il rapporto COP che è stato diffuso questa mattina, dove si racconta che il 2012 fa segnare la più ampia contrazione dal dopoguerra dei consumi delle famiglie -4% e si stima che il 2013 non sarà migliore, sarà migliore, ma sarà comunque sempre all'insegna del segno meno, -1,3%. Nella sostanza, dal 2008 ad oggi i consumi degli italiani sono tornati indietro di ben 17 anni, siamo ai livelli del 1996. Approfondiremo appunto in maniera dettagliata anche questo tema, legandolo peraltro anche al dato sull'inflazione che è stato diffuso oggi. C'è la stima dell'Istat sul dato definitivo del 2012, +3%, l'inflazione al 3% in Italia, e quindi cercheremo di capire anche se questo livello è sostenibile. Un po' di inflazione fa bene all'economia, perché qualche volta, quando tutto va come dovrebbe andare, denota anche un po' di ripresa economica. Qua invece abbiamo dei fattori un po' distorsivi che invece non indicano esattamente questo. Comunque ne parleremo diffusamente. 349-238-6666, il tema, se vorrete scambiarli con noi per i vostri, il numero se vorrete appunto per scambiare con noi i vostri messaggi. Adesso le altre notizie in breve della giornata. Cominciamo come sempre con delle materie prime. Come va oggi per l'oro, come va oggi per il petrolio? L'oro questa mattina era in calo sui mercati asiatici a $1,646 l'oncia. Sulle quotazioni pesa la probabile fine degli acquisti di titoli da parte della Federal Reserve americana. Questo è stato un tema di cui si è appreso nelle ultime ore, da quando sono state diffuse le minute, cioè i verbali dell'ultima riunione della Federal Reserve, da dove è emerso un certo contrasto fra i membri del comitato di politica monetaria della Banca Centrale Americana su questi programmi di quantitative easing, di acquisti di titoli di Stato americani. Per qualcuno si dovrebbe continuare, per altri questo programma si dovrebbe interrompere. Questo disaccordo oggi, proprio in apertura dei mercati, aveva alimentato un certo nervosismo ed evidentemente questa notizia si è riflessa anche sulle quotazioni del metallo giallo. Il petrolio invece a New York ha aperto oggi a $92,40 al barile. Il debito americano al 2 gennaio risultava pari a 16.393 miliardi di dollari, molto vicino alla soglia legale dei 16.400 miliardi. Il tetto del debito dovrà essere aumentato entro la fine di febbraio per evitare un ritardo nei pagamenti e sarà al centro di trattative che saranno sicuramente di nuovo durissime fra il Congresso e l'amministrazione Obama. Lo scontro sull'aumento del tetto del debito è costato nel 2011 agli Stati Uniti il downgrade, cioè la riduzione di giudizio da parte di Standard & Poor's, che ha tolto al debito americano la AAA. Parlavamo poco fa, anticipavamo i dati sull'occupazione americana, o meglio sulla disoccupazione americana. L'economia statunitense ha creato in dicembre 155.000 nuovi posti di lavoro e il tasso di disoccupazione si è attestato al 7,8%, lo ha comunicato il Dipartimento del Lavoro. Il settore privato ha creato a dicembre 168.000 posti di lavoro, mentre quello pubblico li ha ridotti di 13.000 unità. Il settore delle costruzioni ha creato 30.000 posti di lavoro in America, il risultato migliore dal 2011, pensate, mentre da noi questo comparto va malissimo, negli Stati Uniti invece crea e genera occupazione. Il settore manifatturiero ha invece creato 25.000 nuovi posti di lavoro. Un altro tema che approfondiremo nel corso di Focus Economia è l'ultimo grande social network a non aver ancora tentato le acque tumultuose dei mercati finanziari, ma secondo alcuni analisti avrebbe tutte le ragioni per farlo e probabilmente lo farà prossimamente, quando le acque sui mercati saranno un po' meno agitate. Twitter, il sito ormai utilizzato anche dai capi di Stato e dal Papa, oltre che da milioni di utilizzatori per condividere i propri pensieri, vale circa $11 miliardi, secondo una società di analisi che si chiama Greencrest. La società in realtà è stata in passato anche tra quelle che avevano fortemente esagerato il valore della quotazione di Facebook, però in ogni caso si sono cimentati anche nel fare le valutazioni su Twitter. Il suo valore complessivo è di $11 miliardi contro gli 8 di fine anno. Parlavamo prima della disoccupazione americana, ma come sapete bene la situazione è molto delicata anche in Europa, e martedì la Commissione europea presenterà il nuovo rapporto sulla situazione sociale e sull'occupazione in Europa e farà il punto sulla disoccupazione a lungo termine, la polarizzazione dei salari, il funzionamento dei sistemi di protezione sociale. Dopo 5 anni di crisi economica, la disoccupazione ha raggiunto in Europa livelli mai toccati negli ultimi 20 anni. L'11,6% nell'Eurozona a settembre è stato il massimo storico da quando Eurostat pubblica la serie statistica, cioè dal 95. Nell'Eurozona i disoccupati sono 18 milioni e mezzo, nell'intera Unione Europea sono 25 milioni e 700 mila, al 10,6%. L'allarme è stato lanciato da tempo, ma risultati concreti ancora non se ne vedono, e a Bruxelles si comincia a parlare di una indennità di disoccupazione minima, si comincia a parlare di accelerare gli sforzi per alleggerire la tassazione sul lavoro, un altro tema che sarà al centro anche dei candidati politici probabilmente in Italia per la campagna elettorale che è già iniziata, non per la prossima. Ma c'è un terzo fronte da aprire: nonostante la crisi nell'Unione Europea, ci sono oltre 2 milioni di posti di lavoro vacanti, e cioè non coperti da nessuno. Andiamo invece alle questioni occupazionali che riguardano il nostro paese. A novembre 2012 le domande di disoccupazione presentate all'INPS sono state 128.534, con una diminuzione del 4,58% rispetto al novembre dell'anno precedente. Nei primi 11 mesi dell'anno, rileva INPS, le richieste di disoccupazione sono state 1.285.299, con un aumento invece complessivo del 14,5%. Le domande di mobilità presentate a novembre 2012 sono state 10.173, nei primi 11 mesi sono state presentate all'INPS 133.052 richieste di mobilità, in aumento di oltre il 17% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Nel 2012 le aziende italiane hanno chiesto all'INPS quasi 1.100.000 ore di cassa integrazione, con un aumento del 12% rispetto al 2011. Nel 2012 si è toccata quota 1.090.000 a fronte dei 1.090.000 a fronte dei 973 milioni del 2011, lo rileva sempre INPS, ricordando che il top è stato raggiunto nel 2010. La Procura della Repubblica di Taranto ha dato parere negativo sull'istanza di dissequestro dei prodotti finiti e semilavorati avanzata dai legali dell'ILVA, rimettendo gli atti al giudice per le indagini preliminari, al quale chiedono di sollevare la questione di legittimità costituzionale sul cosiddetto decreto salva ILVA. Inflazione. In Europa in dicembre è stata stabile al 2,2%, in Italia invece, secondo la prima stima dell'Istat, è stata pari al 3%, quindi in accelerazione rispetto al 2,8% del 2011. Si tratta, comunica Istat, del valore medio annuo più alto dal 2008, cioè da 6 anni a questa parte. Molto preoccupante l'aumento dei prezzi degli prodotti che compongono il carrello della spesa, più 4,3%, anche in questo caso un record dal 2008. A dicembre però si è registrato un nuovo calo dei prezzi dei carburanti, che in precedenza invece non avevano manifestato un andamento così virtuoso, meno 1,1% in questo mese per quello che riguarda le quotazioni della benzina, meno 0,6% per il gasolio. Il record dell'inflazione annua registrato quest'anno ha responsabili evidenti nelle tariffe e più ancora nell'andamento di energia e carburanti, che da soli costituiscono circa il 2/3 del dato. Resta invece ancora desolante la situazione dei consumi, anche a dicembre la frenata si vede ed appare allarmante. Questo è il commento sui dati che vi abbiamo appena appunto dato dell'Ufficio Economico di Confesercenti. 6 italiani su 10, il 61%, hanno tagliato intanto il carrello della spesa per effetto dell'aumento dei prezzi e del crollo del potere d'acquisto, mentre un 6% non riesce ad arrivare a fine mese. Emerge tutto questo da un'analisi di Coldiretti SVG diffusa proprio dopo i dati Istat. E tutto questo lo apprendiamo proprio nella vigilia della partenza ufficiale in quasi tutte le regioni italiane della stagione dei saldi invernali. 6 italiani su 10 sono pronti all'appuntamento con i saldi e ad approfittare dei ribassi dei prezzi. Secondo uno studio della Confcommercio, il 60,5% dei consumatori comprerà durante i saldi, con un calo dell'8% sul 2012. Secondo la stima dei commercianti, saranno in calo le vendite di calzature, accessori, biancheria intima e per la casa, mentre dovrebbero reggere i capi di abbigliamento. Il 68,7% dei consumatori spenderà meno di 200 euro. Sentiamo il commento di Massimo Torti, segretario generale di Federmoda Italia, di Confcommercio, che abbiamo intervistato questa mattina a Salvadanaio. Le previsioni sono non rose, però diciamo che i saldi rappresentano sempre un appuntamento irrinunciabile. È un rito collettivo di straordinaria importanza, sia dal punto di vista economico anche sociale. Come Confcommercio, Federazione Moda Italia, abbiamo stimato un volume d'affari sui 5 miliardi e 600 milioni all'anno per quest'anno, e diciamo che questo vale la pena di considerarlo un evento importantissimo ed irrinunciabile. Sono 359 mediamente gli euro spesi da ogni famiglia italiana, e numerosissimi sono anche gli stranieri amanti del Made in Italy che vengono in Italia apposta per i saldi. Quindi questo è il punto di vista economico. Dal punto di vista sociale, i saldi rappresentano anche la possibilità di soddisfare un desiderio o maggiormente in questo periodo storico una necessità. Perché si dà la possibilità ai consumatori di acquistare un capo di qualità a un prezzo accessibile. La ricerca di Format Confcommercio, proprio uscita oggi, condivide questa linea, tant'è che dice anche che l'89,2% dei consumatori ritiene molto o abbastanza buona la qualità dei prodotti a saldo, mentre il 74,8% ritiene molto o abbastanza buona la varietà dei prodotti a saldo. Questi due dati indicano un chiaro interesse dei consumatori per la qualità dei prodotti venduti, ovviamente anche per il prezzo, però la qualità ha un valore aggiunto soprattutto per i prodotti comprati nei negozi tradizionali, multimarca, quelli di vicinato. Eccoci di nuovo ritrovati, allora cambio di sottofondo musicale naturalmente per indicare anche cambio di tema, soprattutto l'arrivo del primo approfondimento di oggi. Mentre i commercianti si raccolgono in preghiera in questi giorni con l'auspicio che naturalmente i saldi magari portino a casa i risultati migliori di quanto preventivato, anche nei supermercati non è che le cose vadano meglio. Naturalmente poi una famiglia al supermercato si deve recare per forza, perché in qualche maniera bisognerà anche comporre un pranzo e una cena, e però insomma ma anche la grande distribuzione, le grandi insegne della grande distribuzione cominciano ad esprimere una certa preoccupazione sull'andamento dei consumi delle famiglie. E allora sentite che cosa ha scoperto il rapporto COP consumi e distribuzione. Anche quest'anno questo studio conferma che il 2012 fa segnare la più forte contrazione dei consumi delle famiglie, pensate, dal dopoguerra ad oggi, meno 4%, e si stima che il 2013 si chiuderà con un'ulteriore flessione dell'1,3%. Con questi dati il livello dei consumi si riporta ai livelli del 1996, un balzo indietro di 17 anni. Non vi anticipo altro, lo facciamo insieme, racconteremo i dettagli di questo rapporto con Albino Russo, responsabile dell'Ufficio Studi Economici di ANCC COP, l'Associazione Nazionale delle Cooperative di Consumatori, appunto della COP. Albino Russo, buonasera. Buonasera a voi. Allora, sì, sono effettivamente magari un meno 2, meno 3 per quello che riguarda le vendite. Qualche volta ai comuni mortali possono apparire cifre anche piuttosto contenute, no? Invece quando si parla di largo consumo, di vendite al dettaglio, sono percentuali assolutamente, per gli addetti ai lavori, Russo, spaventose, molto preoccupanti, sì, no? Certamente. Vero? Anomale, certamente segnano una grande difficoltà delle famiglie. Ricordiamo che questi sono valori correnti. Se oggi è la giornata dell'inflazione, se l'inflazione ha fatto il 3% e le vendite calano di 1 o 2 punti, vuol dire che la spesa vera delle famiglie in quantità è calata di 4-5 punti in un solo anno. Questo testimonia ancora una volta la difficoltà, il fiato grosso delle famiglie ad arrivare in fondo e a soddisfare le esigenze quotidiane. C'è stata una tendenza negativa che è durata tutto l'anno, poi Russo, uno scatto d'orgoglio, chiamiamolo così, in dicembre, per fortuna. Sì, per fortuna e forse in maniera inattesa. L'autunno è andato molto male, molto peggio dell'estate e della primavera. Anche le prime settimane del mese di dicembre non facevano, tarpavano le ali a qualsiasi ambizione di ripresa. Dobbiamo dire che ancora una volta gli italiani ci sorprendono per la grande capacità manageriale di gestione delle poche risorse finanziarie che hanno. Mi spiego meglio. Il momento peggiore nella spesa degli italiani ha coinciso con le ultime due settimane prima del pagamento dell'IMU. Le prime settimane di dicembre, ancora una volta, come dicevo prima, sono state molto difficili, facendo segnare una riduzione anche superiore al meno 4%. Poi, pagata l'IMU, le famiglie hanno veicolato nei punti vendita della grande distribuzione, solo in quelli più convenienti e in quelli più economici, essenzialmente ipermercati e discount, le poche risorse che avevano per festeggiare assieme alle proprie famiglie. Qui l'impressione, per il momento è solo un'impressione, che le poche risorse siano state concentrate sulla ristorazione domestica, probabilmente sono state limitate le scene fuori casa, non sono molti di meno i viaggi o i weekend fuori casa, ma appunto la grande distribuzione è tornata a essere un punto di riferimento per l'acquisto dei prodotti alimentari, ma anche per i piccoli regali della famiglia. Tra l'altro, questo lo stanno già segnalando molti ascoltatori, lo indicate anche molto bene voi nel vostro rapporto, è chiaro che una determinata tipologia di consumo si comprime nel momento in cui ci sono certe spese fisse che all'interno della famiglia purtroppo non possono essere eliminate. Voi citate le utenze, gli affitti, i mutui, ci mettiamo anche l'auto, l'assicurazione, ce ne sono tante altre che naturalmente i carburanti, esatto. Siccome nel 2013 qualche altra sorpresa ce l'avremo, noi in questi giorni abbiamo parlato per esempio della TARES, la sua rimodulazione della tassa sui rifiuti, per cui la rosa delle spese fisse per le famiglie tenderà ad ampliarsi e a complicarsi. Voi stimate un 2013 che porterà ad un'ulteriore contrazione dei consumi delle famiglie? Ci sarà pure qualche spiraglio di luce che in qualche maniera potrà modificare questo meno 1,3% che già stimate? Potrebbe tendere al peggio, Russo? Ma qui molto il segno meno l'anno prossimo dipende ancora una volta dall'aggiustamento fiscale in corso in Italia. Cioè le diverse manovre degli ultimi anni, di Tremonti prima e di Monti dopo, non hanno ancora scaricato sulle famiglie interamente i loro effetti e quindi ci sarà un incremento della pressione fiscale diretta o indiretta, basti pensare al punto in più d'IVA, ci sarà probabilmente un piccolo peggioramento, speriamo non così ampio, della disoccupazione. E un ulteriore elemento di preoccupazione riguarda l'inflazione. Queste sono le tre cose che possono condizionare lo scenario e che ci fanno pensare che ci sarà appunto una riduzione dell'1,4%. Qual è l'elemento che può cambiare lo scenario? Probabilmente la capacità del sistema paese di credere nel domani, in cui conterà molto la tornata elettorale della prossima primavera. Se da quella tornata, prima o ancor meglio dopo, venissero dei segnali di stabilizzazione dell'economia e di, in un qualche modo, ripresa di un percorso serio e virtuoso del paese, questo potrebbe certamente aiutare le aspettative. No, tra l'altro questo si aggiunge anche a quanto diceva lei prima, che arrivasse l'IMU, il saldo di dicembre tutti lo sapevamo, però le famiglie hanno aspettato a pagarla per poter poi fare delle spese che magari all'inizio non avevano preventivato. Questo ci indica quanto il fattore psicologico conti. Non è che l'IMU sia arrivata il 18 dicembre così a sorpresa, certo. Una spesa che già sapevamo, però una volta superato l'impatto, insomma, del pagamento di questa novità, la famiglia psicologicamente si è sbloccata, per cui è molto significativo quello che ci dice anche a conferma di questo. Volevo chiederle un'ultima cosa, sì. Russo, a parte appunto volevo raccontare anche agli ascoltatori di come a parte le difficoltà nel settore degli alimentari, anche l'auto, per quello che riguarda i consumi, i valori sono tornati al 74 secondo il vostro barometro. Ieri parlavamo di immatricolazioni che hanno riportato indietro nel tempo appunto questo settore a 30 certo. anni, al 79. L'abbigliamento, i consumi sono non erano così bassi dal 1984, i viaggi dal 94, la ristorazione dal 99. Qualitativamente come stanno cambiando le scelte di spesa delle famiglie quando devono comporre il carrello della spesa, Russo? Beh, qui anche in questo caso il comportamento degli italiani è sorprendente e in un qualche modo virtuoso. Gli italiani non sono consumatori come gli altri, le famiglie italiane forse sono tra le diverse nazionalità quelle che spendono con più oculatezza, badando non solo al prezzo ma anche alla qualità e ai servizi dei prodotti che comprano. Nel carrello della spesa quest'anno i consumatori hanno fatto una grande operazione di spending review, comprimendo la spesa ma tutelando il livello di qualità e di servizio. Facciamo degli esempi. Sono riusciti a eliminare il superfluo selettivamente mantenendo i consumi dei prodotti più necessari. Per esempio meno maionese più tonno, non lo so adesso. No, ecco, per fare degli esempi, hanno ad esempio abbattuto gli acquisti di bevande zuccherate, bevande analcoliche ma anche di alcolici, e hanno tutelato altri acquisti più significativi, hanno tagliato il fuoripasto, la merendina che si mangia davanti alla TV, e hanno invece concentrato l'attenzione sui pasti principali come pranzo e cena, hanno migliorato la colazione attingendo alle risorse che non spendono più nei bar la mattina, si torna a fare una colazione più salubre in casa e meno fuori. Contemporaneamente però non c'è stato un impoverimento del paniere di spesa su alcune merceologie, su alcuni settori, anzi forse gli italiani sono andati ad investire qualcosa di più. Un esempio per tutti è la crescita significativa dei prodotti biologici, ad esempio, che fanno segnare addirittura un più 10% nella grande distribuzione. Albino Russo, con una battuta, visto che molti ascoltatori ce lo risegnalano, noi gli abbiamo dedicato un nuovo approfondimento nella puntata di ieri di Focus Economia. Secondo lei il redditometro pure avrà un piccolo impatto sul carrello della spesa? Perché siccome adesso le famiglie temono di essere monitorate in ogni tipo di abitudine di spesa, secondo lei inciderà anche questo? Io non credo. Io credo che gli italiani sono molto affezionati alla loro cultura alimentare, è un pezzo dell'identità nazionale quello che mangiamo, e questa crisi sta dimostrando che cercano di difenderlo con i denti, limitando gli sprechi ancora una volta, come dicevo prima, limitando il superfluo, ma continuando a mangiare bene, forse. Gli italiani sono il popolo al mondo che mangia meglio. Sì, questo non mi sento di poterla smentire su questo aspetto. Grazie, dottor Russo, buona Grazie serata. A voi, salve. Buon lavoro, buon fine settimana. Ci fermiamo adesso, pubblicità, e poi ritorniamo con la borsa che sta chiudendo con un più 0,30% sul FTSE MIB. Focus Economia. Sono le 17.37, ancora buonasera da Deborah Rosciani, Focus Economia, e tempo del racconto della seduta di borsa. Stiamo archiviando questa prima settimana di contrattazioni che per la verità è stata composta da tre sole sedute. Abbiamo Parigi in rialzo dello 0,24%, Francoforte più 0,26%, Londra più 0,51%, Milano più 0,30% sul FTSE MIB. Buonasera Chiara Di Cristofaro, Radio Cori, Il Sole 24 Ore. Chiara, buonasera, ciao. Ciao Deborah, buonasera agli ascoltatori. E buon anno soprattutto, visto che l'abbiamo augurato a tutti. Allora, è stata una giornata un po' più debole, questa mattina era più nervoso il mercato perché abbiamo letto anche da i commenti appunto vostri, delle agenzie un po' su una serie di reportistiche, insomma, che il mercato era preoccupato perché ha letto questi verbali della Federal Reserve di ieri sera, dove si comincia ad intravedere un po' di disaccordo fra i membri del braccio operativo della Federal Reserve, il Federal Open Market Committee, e non tutti sono più d'accordo sulla necessità di proseguire queste manovre di stimolo monetario e quantitative easing, l'acquisto di bond appunto americani. Poi nel pomeriggio Chiara, tutto superato grazie al dato sulla disoccupazione americana, sono sempre gli Stati Uniti a dettare legge questa settimana. Sì, infatti come hai detto tu, l'andamento stamattina era molto debole, c'era preoccupazione per i motivi che hai appena elencato, attesa per questo dato sul mercato del lavoro, che è comunque uno degli indicatori principali sullo stato di salute dell'economia statunitense. Il dato non è stato particolarmente brillante, ma non ha deluso. Il tasso di disoccupazione è al 7-8%, sostanzialmente stabile con una leggerissima variazione, ma sono stati creati più posti di lavoro di quanti ci si aspettasse, quindi questo in qualche modo è bastato a dare il là. Dobbiamo dire che sono sedute ancora con un clima festivo, gli scambi sono veramente ridotti e quindi basta poco per avere dei movimenti sul mercato. Questo però insomma è bastato per chiudere poi un'altra seduta in rialzo che consolida quindi i forti guadagni che abbiamo visto nella seduta del 2 gennaio, la prima seduta dell'anno. Certo, allora tutto il settore bancario anche oggi è stato aiutato in maniera anche direi non decisa, proprio prepotente, dallo spread che continua a scendere per fortuna. Questo naturalmente è un buon fattore per le casse dello Stato, che risparmia sugli interessi appunto relativi al debito del nostro paese. Buone notizie anche per le banche, che naturalmente riescono a ritornare a guadagnare. Monte dei Paschi più 12%, titolo in fibrillazione da questa mattina, ma insomma tutto l'effetto spread si è concentrato a Siena oggi? Pare proprio di sì, come dicevi tu il differenziale tra BTP e Bund è sceso ancora, è arrivato sotto i 270 punti a 268, quindi in qualche modo è come se il mercato stesse scontando una maggiore rilassatezza su quello che era chiamato il rischio Italia, e sono proprio le banche a beneficiarne, innanzitutto MPS, il Monte dei Paschi, che ha in pancia tanti titoli di Stato, quindi è stata una delle banche che più ha risentito degli andamenti dello spread. È un titolo che è stato fortemente penalizzato negli ultimi mesi, che ha subito varie vicende anche societarie che l'hanno riguardato, insomma è un titolo fortemente deprezzato, gli operatori lo indicano anche come uno dei titoli più scoperti, cioè uno di quei titoli meno tenuti in portafoglio, quindi ci dicono oggi sono scattate sostanzialmente le ricoperture con la scusa, con lo spunto dello spread. C'è da dire però che i volumi sono stati particolarmente elevati, non è tanto il rialzo che comunque è un più 12%, ma è passato di mano il 7% del capitale, quindi si tratta comunque di scambi veramente forti, nettamente superiori alla media dell'ultimo mese, tanto che la Consob ha avviato anche un monitoraggio sull'andamento del titolo, come fa sempre in questi casi, quindi insomma una storia da seguire sicuramente. Oggi in movimento di nuovo anche le banche popolari, per la Milano più 5%, per il Banco Popolare più 1,61, insomma si mette in moto il risico delle popolari quest'anno, cosa dicono gli operatori? Questo è quello su cui un po' scommettono gli analisti. Il movimento delle popolari è iniziato da quando è stato approvato l'accordo sull'Unione Bancaria Europea, poi sono arrivati una serie di report, l'ultimo dei quali quello di Mediobanca, che è uscito a metà dicembre, che ipotizzava una serie di matrimoni, in particolare quello della Popolare Milano col Banco Popolare e quello di UBI con la Popolare Emilia Romagna, ed è curioso perché in queste ultime tre sedute si sono mosse proprio appaiate, cioè la Popolare Milano e il Banco Popolare con rialzi simili e le altre due altrettanto, quindi diciamo che il mercato ci sta sperando. Mediobanca più 1,85, Fiat ancora in evidenza, qua nostro malgrado dobbiamo sempre parlare della galassia del lingotto, i titoli SPA più 1,62%, già ieri avevamo fatto un lungo ragionamento con Andrea Malan sulle immatricolazioni del 2012, mercato italiano a picco, però a compensare ci pensano altre aree del globo e Fiat è premiata per le vendite in Brasile. Sì, infatti Fiat non ha, come dire, archiviato rapidamente i disastrosi dati di tutto il mercato auto poi del 2012 in Italia e si è concentrata Poi sul business su cui sta puntando di più di fatto, che è quello dei mercati d'oltreoceano, quindi ha visto performance record in Brasile sia dal punto di vista della produzione che dal punto di vista delle vendite, ma non solo, sta andando molto bene anche Chrysler, la controllata americana del gruppo, che ha registrato un incremento di quasi il 60% delle vendite del marchio Fiat negli Stati Uniti a dicembre, quindi un altro dato molto positivo. E poi ieri è arrivata la notizia che Fiat ha deciso di esercitare l'opzione di acquisto che aveva sul 3,3% di Chrysler, è salita ancora, è al 65,17%, e anche questa è una notizia positiva per gli operatori, perché appunto Fiat sta puntando sul business che funziona in questo momento. Allora andiamo ai titoli invece che si sono comportati peggio. STM -1,50, Ansaldo, gravitiamo intorno alla galassia Finmeccanica, -1,37, Telecom -1,25, Chiara concentriamoci qui perché fra un po' devo andare ai suggerimenti per chi è in viaggio. Telecom non riesce proprio a chiudere la partita, Telecom Italia Media. È questo quello che non piace al mercato, la vendita sembra sempre più in bilico, la situazione in stallo, ci sarà un consiglio di amministrazione il 17 gennaio in cui forse si potrà discutere del caso, si potranno avere delle novità. Certo è che se Telecom Italia Media non sarà venduta, questo avrà un riflesso sui target del debito del gruppo, che è un po' la nota dolente per Telecom Italia negli ultimi anni, e questo insomma preoccupa piuttosto il mercato. Ecco, però un minutino di tempo da dedicare alla galassia Finmeccanica, l'abbiamo ripescato. Ottimo, Finmeccanica, altro titolo debole, anche qui l'incertezza sulla vendita di Ansaldo Energia è quella che pesa, perché un articolo oggi parlava del possibile rinvio a dopo le elezioni politiche, quindi plausibilmente ad aprile, quando ci sarà un nuovo governo stabilmente insediato. E Ansaldo Energia doveva essere venduta nel 2012, anche questo peserà sui conti. Chiara, grazie molte per essere stata con noi, buona serata. Grazie a te Deborah. Allora, gli ascoltatori che si lamentano, non hanno sentito l'inizio, che non ho detto come stanno andando gli indici americani, vi riaggiorno: abbiamo il Dow Jones che adesso è in rialzo dello 0,17%, il Nasdaq che era in negativo un'oretta fa adesso riesce a spuntare un più 0,02%, Standard & Poor's più 0,28%. Stamattina, tra l'altro, dopo la pausa di Capodanno, hanno ripreso le contrattazioni anche a Tokyo, più 2,82% per la borsa giapponese. Suggerimenti per chi è in viaggio. Focus Economia. Ed eccoci di nuovo in diretta, ancora buonasera da Deborah Rosciani. Adesso parliamo di un argomento che appassiona trasversalmente tutti, perché parliamo dei social network, ormai ne facciamo tutti quanti, perché nessuno di noi può dirsi escluso da questo mondo, un utilizzo quasi ossessivo. Questo forse riguarda prevalentemente Facebook, un po' meno altri social network dei quali si fa un uso invece un po' più professionale, mi riferisco a LinkedIn, e forse in questo mondo può essere ricompreso anche Twitter, quel social network dove si twitta, dove si cinguettano i commenti sui fatti del giorno, anche opinioni personali che si possono condividere naturalmente con tutta la popolazione che poi aderisce anche al proprio profilo, che condivide il proprio profilo. Allora, perché ne parliamo oggi? Perché dopo che lo ha fatto lo scorso anno Facebook, adesso anche Twitter sarebbe sul punto, o quantomeno sarebbe tentata la società di quotarsi in borsa. Molte società chiaramente si sono cimentate in questi ultimi periodi in una quantificazione del valore di questa società, di quanto potrebbe valere anche la sua quotazione, di che prospettive di crescita potrebbe anche avere in un momento in cui per la verità le quotazioni in borsa languono molto, per cui è chiaro che chi ci va solo con una prospettiva di successo. Era così anche per Facebook, per la verità, e poi il debutto sapete bene com'è andato, perché ve lo abbiamo raccontato molte volte. Domani di questo scrive sulle Sole 24 Ore il collega di Nova, l'inserto dedicato alle tecnologie e alle scienze, Luca Tremolada, che saluto. Luca, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori. Allora, Twitter si quota o no? Insomma, visto che ha anche la benedizione del pontefice, perché addirittura si è costruito anche il Papa un profilo appunto su questo social network, dovrebbe andare tutto bene, no? Perché non scioglie la riserva? Riserva, il management della società. Allora, forse solo il pontefice, nel senso dell'ultimo... C'è Barack Obama, ci sono tutti. Ci sono tutti, addirittura 3 capi di Stato su 4 hanno aperto un profilo su Twitter. Eh sì, infatti le esternazioni di Monti attraverso Twitter hanno un po' preoccupato l'Italia, infatti ultimamente, perché adesso tutti hanno deciso di farlo in questo modo, no? Quello che devono dire lo fanno su Twitter. Esatto, ma poi non solo loro, tra l'altro... Se ti ricordi bene, era iniziato come un social network assolutamente di nicchia, ci stavano qualche giornalista, i tecnologi, professore universitario, poi sono arrivati i calciatori, le star del cinema, Hollywood, gli sportivi ed ora anche la politica e i capi di Stato. Comunque, insomma, al di là di tutto, hai fatto bene a usare il condizionale, dovrebbe quotarsi, perché insomma quello che non è molto chiaro sono i numeri. Quello che sappiamo è che nei giorni scorsi su Forbes si è alzato un analista, l'ennesimo analista, diamo nome e cognome, questo Max Wolf di Greencrest, che ha sparato questa 11 miliardi di dollari di quotazione, 2 miliardi in più o meno della valutazione invece un pochino più reale fatta nel 2011. Allora, quando di solito tu mi insegni un analista comincia a valutare un social network perché c'è in vista la borsa, infatti su Forbes hanno detto molto probabilmente non ora, sulla fine del 2013, magari inizio 2014, e questa valutazione è anche legata ai nuovi numeri di Twitter, che li ricordiamo, insomma nel mondo ci sarebbero oltre 500 milioni di utenti registrati e 200 milioni di utenti attivi al mese, per cui di persone che twittano come dei matti, che sono numeri interessanti indubbiamente. Ricordiamo solo che Facebook ne ha più di 1 miliardo, però insomma la metà. Qual è il problema? Il problema è che non siamo sicuri che questi numeri siano esattamente quelli reali. Perché? Perché perché Greencrest già qualche scivolone l'ha fatto in passato, allora, questa società, l'ha fatto clamoroso su Facebook. Greencrest aveva pompato come non mai la quotazione di Facebook, ma non è tanto una questione di analisi finanziarie, è una questione di fake utenti, cioè di utenti falsi, ossia da un paio di anni esiste un mercato nero delle utenze Twitter. Che cosa vuol dire? Cioè, se tu hai un $20 da $100 ti puoi comprare dei programmi, no, chiamiamoli dei programmi informatici, che creano dei falsi utenti. Sì, vabbè, ma è anche abbastanza facile farlo individualmente senza, per la verità, poi ricorrere a queste sofisticazioni informatiche, no? Senza comprarsi dei programmi io posso farne personalmente già 2 o 3 da sola. Esatto, se dopo voglio industrializzare questo processo diventano milionate. Da qui, non so se ti ricordi il 20, la crescita del 20% di Rooney durante le elezioni americane, era o tutto Berlusconi riconducibile quando a questo, è arrivato che ha fatto subito un botto. Cioè, no, ci sono un po' di sospetti intorno a questi numeri, e quei sospetti sono legati al fatto che in rete ci sono anche dei tool, cioè dei programmini dove non devi stare tu a registrarti e a fingere di essere un utente, ma lo fanno loro automaticamente. Ecco, quindi questo per arrivare, perché devo salutarti fra un attimo Luca, che ho un altro ospite prima di chiudere la trasmissione, questo per arrivare a dire che anche la stessa società, se vuole andare in borsa, vuole andarci con un profilo immacolato dicendo noi facciamo tutto correttamente, non come dire, facciamo esplodere artificialmente il numero dei nostri adepti, chiamiamolo così, quindi il problema è anche questo? Devono fare pulizia, devono fare pulizia, quando i numeri saranno reali non ci sarà alcun dubbio, non ci saranno più fake followers, per dire, allora si potrà ragionare in maniera un po' più chiara. Ecco. Molto bene, per tutto il resto domani sul Sole 24 Ore l'articolo di Luca Tremolada. Luca, ciao, buonasera. Grazie. Noi adesso cambiamo argomento, gli ultimi minuti di Focus Economia li dedichiamo all'Italia che batte la crisi. Saluto subito e ringrazio il professor Marco Fortis, docente di economia industriale all'Università Cattolica di Milano, vicepresidente della Fondazione Edison ed editorialista del Sole 24 Ore. Professor Fortis, buonasera e buon anno. Buonasera e buon anno anche a voi. Purtroppo non ho moltissimi minuti di tempo, però ci tenevamo a raccontare quello che lei ha raccontato questa mattina sulle Sole 24 Ore, parlando dello stato di salute dell'industria manifatturiera italiana. Un'industria fatta e composta, rappresentata fondamentalmente da quello che per qualcuno è un po' un limite, da tante piccole e medie imprese che non hanno grandi capacità di competere sui mercati globali. Hanno tentato negli anni passati di farlo, lo fanno appunto quelle che ci riescono con grande fatica, e quindi questo rende il nostro paese un po' poco competitivo. In tutto questo ci mettiamo in questo momento anche una valuta che non ci facilita le cose, però di fatto lei ha scoperto che l'Italia batte la Germania in termini di competitività sui mercati internazionali in almeno 1200 prodotti. Mi spiega che cosa ha scoperto e soprattutto se può partire anche da un'analisi su con che bilancio si chiude l'anno italiano delle relazioni commerciali con il mondo. Il problema della nostra manifattura è che c'è una parte molto vivace che esporta e, nonostante i limiti del sistema paese, è estremamente competitiva, persino con i suoi soggetti, diciamo, di piccole e medie dimensioni, che a volte sono leader di nicchia. L'altro problema che purtroppo abbiamo invece è quello grave della caduta della domanda interna. Siccome non tutti possono esportare, anche chi esporta comunque vende sul mercato interno, c'è un problema di crisi della manifattura legato alla crisi del consumo interno e degli investimenti. Chi esporta invece sta ottenendo grandi successi. Persino nel 2012, complice anche la caduta dell'import, avremo un record assoluto di circa quasi 90 miliardi di euro di surplus manifatturiero con l'estero, che ci pone, assieme a Cina, Germania, Giappone e Corea, gli unici 5 paesi nel G20 ad avere un surplus manifatturiero strutturale. In molti di questi prodotti noi ne abbiamo analizzati circa 4.000, quelli per cui esistono le statistiche a livello mondiale, e l'Italia, dopo la Cina, è il paese che batte più volte la Germania. Cioè, su 4.000 prodotti noi ne abbiamo oltre 1.200 in cui siamo in surplus commerciale e con una bilancia superiore a quella tedesca. Non si tratta solo di prodotti della moda, dell'arredo, dell'alimentare, come si può pensare, ma anche molti prodotti della meccanica. Oggi noi abbiamo una quantità di leader spesso sconosciuti, che sono i Brunello Cucinelli della meccanica. Insomma, c'è l'estremo sofisticazione nei prodotti, nei macchinari, negli apparecchi della meccanica, accompagnata a una qualità che ha superato quella tedesca in molti settori. Ne cito qualcuno: rubinetteria, valvolame, accessori di autoveicoli, macchine d'apparecchi per impacchettare o imballare le merci, parti di mobili, gli occhiali da soli. Vabbè, qui abbiamo un'industria che è assolutamente il vanto del nostro paese in tutto il mondo. Ma, professor Fortis, naturalmente, per mantenere ancora questa competitività ed anzi magari per implementarla anche in altri settori, abbiamo bisogno che la nostra manifattura venga sostenuta. Lei questa mattina dice sulle Sole 24 Ore, a prescindere dal fatto che la nostra priorità rimane la stabilizzazione dei conti pubblici, ma serve anche un'agenda, attenzione a come utilizziamo questa parola che in questo periodo è un po' inflazionata, per l'industria, che parte da un piano di sostegno mirato alla domanda interna dei settori manifatturieri. Perché punta l'indice sul mercato interno? Ma perché, ripeto, per quanto noi si possa essere bravi ad esportare, l'export rappresenta un 20% della nostra economia, il resto è domanda interna di servizi e anche di manufatti. Si pensi all'edilizia: fermare l'edilizia, avere l'edilizia in crisi, gli investimenti infrastrutturali pubblici fermi, significa tenere fermo una enorme parte della nostra economia. Ci sono settori che esportano il 50-60% all'estero, ma il restante 40-30-20% in questo momento ha delle cadute dell'ordine anche del 20-30%, come il caso dei mobili, un settore che meriterebbe attenzione perché occupa 400.000 persone. Lei per questo settore propone un nuovo piano di incentivi fiscali, ma non sarebbe meglio prima passare attraverso un mettere un po' più di soldini nelle tasche delle famiglie? Quindi qui c'è anche l'altra sua proposta, la riduzione del cuneo fiscale. Sì, ma le due proposte vanno di pari passo. Cioè, da una parte bisogna ridare un po' di soldini, come lei dice, nelle tasche degli italiani. Io comincerei dagli addetti dell'industria manifatturiera, visto che si sobbarcano tutta questa mole di fatica per tenere in piedi il paese, è giusto cominciare da loro. Non sono poi tantissimi, e quelli che non hanno redditi elevati saranno intorno ai 2 milioni di addetti complessivamente. Dare 1.000 euro a 2 milioni di addetti non è una cifra impossibile. se pensiamo a quanti sprechi avvengono nel settore della pubblica amministrazione, certo, o anche quante spese inutili si fanno e non sono certo prioritarie rispetto all'esigenza di rilanciare i consumi interni, di sostenere obiettivamente degli addetti che danno un valore aggiunto reale all'economia. Grazie professor Fortis, purtroppo devo salutarla, ma ci risentiremo. Focus Economia torna lunedì con Sebastiano Barisoni. A tutti buon fine settimana. Radio 24, la passione si sente.